Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Il racconto Spigolature garibaldine di e con Riccardo Barbera. Spigolature garibaldine non è uno spettacolo teatrale, è nato da un'esigenza addirittura istituzionale. Le istituzioni quest'anno chiedevano a tutte le manifestazioni culturali di impegnarsi nel racconto del risorgimento del 150enario, e mi sono ritrovato, come molti, a dover improvvisare un qualche cosa alla quale non mi sentivo neanche molto portato, come quasi, soprattutto dopo un anno in cui non si parlava d'altro, per cui come si faceva a parlare di risorgimento dopo che già ne avevano parlato tutti, e un argomento così scabroso e così sempre vicino, così pericoloso. Però la necessità diventa virtù, mi sono tuffato in questa avventura, mi sono affidato a dei lavori precedenti, ma non si può parlare di Garibaldi, questo è un prologo, se non si sia capito, spero che si sia capito, non si può parlare di Garibaldi senza parlare dell'Italia dell'epoca, della quale non sappiamo quasi nulla, almeno in ciò che ci rimane dai ricordi scolastici, cioè della sua realtà. A noi rimane soltanto qualche brandello letterario. Ne faccio un esempio. Le campagne dell'Italia della seconda metà dell'Ottocento, nella mia testa si rifacevano una poesia di Pascoli, Romagna, che adesso vi dico perché mi fa molto ridere, anche se lui penso che non intendesse suscitare questo effetto. Là, nelle stoppie, dove singhiozzando va la tacchina con l'altrui covata, presso gli stagni lustreggianti, quando lenta vi guazza l'anatra iridata, oh fossi io teco, e perderci nel verde e di tra gli olmi nido alle ghiandaie gettarci l'urlo che lungi si perde dentro il meridiano ozio dell'aie, mentre il villano pone dalle spalle gobbe la ronca e afferra la scodella, e il bue rumina nelle opache stalle la sua laboriosa lupinella. Da borghi sparsi le campane intanto din don si rincorron coi lor gridi argentini, chiamano Arrezzo alla quiete, al santo desco fiorito d'occhi ai bambini. Allora questa è l'idea idilliaca della campagna italiana dell'Ottocento. Ci dà già un segnale letterario leggermente diverso Ignazio Silone quando ci dice che la struttura delle campagne era questa: in capo a tutti c'è Dio padrone del cielo, questo ognun lo sa. Poi viene il principe Torlonia, padrone della terra. Poi vengono le guardie del principe. Poi vengono i cani delle guardie del principe. Poi nulla. Poi ancora nulla. Poi ancora nulla. Poi vengono i cafoni. E poi si può dire che è finito. Già questo ci dà un'idea della struttura sociale. Ma esistono, noi cominciamo ad avere qualche notizia su cosa fosse l'Italia dell'epoca, dai primi documenti dell'Italia appena unita. Perché il governo appena formato compose una commissione che doveva cercare di reperire dei dati su questa Italia appena nata. Da lì abbiamo i primissimi dati, che certo rispecchiano anche la situazione, certamente non era molto cambiata, di pochi anni prima, diciamo di quegli anni. Nelle valli, Questo io leggo da questa relazione. Nelle valli delle Alpi e degli Appennini e anche nelle pianure, specialmente nell'Italia meridionale e perfino in alcune province tra le meglio coltivate dell'Alta Italia, sorgono tuguri ove in un'unica camera affumicata e priva d'aria e di luce vivono insieme uomini, capre, maiali e pollame. E tali catapecchie si contano forse a centinaia di migliaia. Questo, dice l'indagine parlamentare sulla condizione del mondo agrario italiano, che rimase nota come inchiesta Iacini, dal nome di Stefano Iacini, che fu a lungo ministro dei lavori pubblici. Questa indagine fotografa l'Italia povera, lacera e macilenta di quel periodo. Eppure, nella stessa epoca, a Chicago è già stato costruito il primo grattacielo. È già partita la sfida a chi farà svittare quello più alto, le condizioni abitative degli italiani, nella stessa epoca, come vi sto dicendo, nelle relazioni dei commissari della Iacini appaiono spesso medievali. Leggo un altro pezzetto. In provincia di Catanzaro i concimi si conservano nelle stalle e se il bestiame, come accade, sta all'aperto, vengono accumulati lì presso. Il concime si vede anche accumulato nelle camere da letto, se queste sono al pian terreno, o nella pubblica via adiacente. Le case in generale sono umide, luride, affumicate, pericolanti, spesso senza imposte e senza soffitto. Non esiste nettezza pubblica. Lo stato dei paesi muove ribrezzo. Non c'è regione d'Italia, neppure una, dove il rapporto possa segnalare un quadro abitativo soddisfacente. Per esempio, Cittadella Padova, siamo al nord, le abitazioni dei lavoratori di campagna in genere sono delle più infelici possibili, sono forse uno dei primi fattori morbosi di tanta parte di popolazione. Ho anche descrizioni delle campagne di Oneglia, addirittura delle città del nord, che adesso vi risparmio. Vi do soltanto un dato raccapricciante per capire quali erano le campagne che Garibaldi attraversò trionfalmente. Dunque, tra il 1861 e il 1870 l'età media degli italiani di vita era di 6,58 anni. Non si arrivava ai 7 anni d'età. Come può essere un dato così raccapricciante? Perché la mortalità infantile era altissima. Negli stessi anni, ogni anno, 1862, 763.000 morti ogni anno in Italia, di questi 363.000, quindi la metà, morti sotto i 5 anni. Questa è l'Italia in cui si muoveva Giuseppe Garibaldi, di cui canterò le gesta e le spigolature in questa lettura delle spigolature garibaldine. Dobbiamo tenerne conto, se no anche del risorgimento non capiremo mai niente. Libertà, sì, libertà, sì, siamo partigiani. Fate largo che passa la brigata Garibaldi, la più bella, la più forte, la più ordita che ci sia. Quando passa, quando lanza, il nemico fugge allora. Tutto rompe, tutto infrange con la forza e con l'ardor. Abbia la giovinezza in cor, simbolo di vittoria. Marciamo sempre forte e non temiamo la morte. La stella rossa in fronte, la civiltà portiamo ai popoli oppressi. La libertà noi porteremo. Fate largo, che passa la brigata Garibaldi, la più bella, la più forte, la più ardita che ci sia. Quando passa, quando avanza, il nemico fugge allora. Siamo fieri, siamo forti per cacciare l'invasor. Allora, parlando di garibaldini, sono tante le storie particolari che nessuno conosce o che pochi conoscono o che presentano delle sfaccettature poco conosciute, ecco, diciamo meglio così. Perché voglio cominciare da Ciceruacchio? È perché fu il primo in cui mi imbattei, era marzo di quest'anno, nel 2011, il Comune di Roma aveva appena imposto alla mia associazione di trattare del risorgimento. Faccio una passeggiata, perché noi facciamo la nostra manifestazione a Gianicolo, quindi proprio nel fulcro delle lotte garibaldine a Roma, no? In mezzo, lì vicino ci sono i busti garibaldini, c'è il museo della Repubblica Romana appena aperto dentro Porta San Pancrazio, c'è il sacrario garibaldino, insomma Il Risorgimento a Roma è proprio racchiuso in quel chilometro quadrato. Allora mi aggiravo intorno al luogo del misfatto, dove sarei dovuto andare in scena per raccontare queste storie, quando mi accorsi in un pomeriggio, era un martedì, di una cosa strana. Sul viale del Gianicolo, di uscita dal Gianicolo, c'era un carico eccezionale, c'era un camion con una gru che stava scaricando poco prima del cancello d'uscita dal Gianicolo un enorme pacco. Un pacco alto, immaginate, 6-7 metri, di cui non si capiva bene il contenuto. Erano presenti forze dell'ordine e anche alcuni signori che rivelavano il loro essere dei funzionari comunali di alta levatura. Mi sono fermato insieme ad alcuni altri curiosi e ho visto poggiare questo enorme pacco, scartarlo pian piano, e apparve alla mia vista un monumento. Un monumento molto bello, nel senso molto, molto imponente, che però subito mi sembrò di aver già visto. Di come fanno a inaugurare un monumento che io ho già visto da qualche parte? Forse una copia, mi chiesi. Lessi sotto il monumento, c'era scritto, e c'è scritto tuttora chiaramente, Ciceruacchio, il popolo di Roma. Ah, il monumento a Ciceruacchio, il monumento a Ciceruacchio. Ma dove l'ho già visto questo monumento? E perché in quel momento mi sembrò di conoscere bene la storia di Ciceruacchio, non riuscivo a incasellarla bene, ma io avevo avuto a che fare con Ciceruacchio abbastanza di recente, e forse la storia del Fontanone, che è il luogo dove lavoro io, aveva qualcosa a che fare. Ebbene sì, un lampo mi si presentò alla mente. Nel 1993, noi facemmo il primo spettacolo nel giardinetto del Fontanone, dietro il Fontanone. Però non avevamo una lira. Per riuscire a finanziarci, affittammo quello spazio a una grande società multinazionale di cui non faccio il nome, che ci diede dei soldi con i quali riuscimmo a fare il primo spettacolo che fece da nucleo per la prima stagione di Fontanone Estate, che adesso siamo al 17° anno. Va bene, andiamo avanti. Ospite d'onore di quella serata era proprio lui, era Nino Manfredi. Ebbene, Nino Manfredi, quando lo incontrammo in quel giardino, era vivo nei nostri occhi per aver appena interpretato al cinema, in un film, il ruolo di Ciceruacchio. Ecco perché ci facemmo raccontare, mi ricordo perfettamente da lui come era andato il film, che cosa era l'ultimo film che abbiamo visto da lui, insomma, con la sua interpretazione. Ne aveva girato nel frattempo un altro all'estero, ma in Italia non avevamo notizia. Per noi Nino Manfredi era Ciceruacchio. E se voi rivedete il film di Gianni Magni, che non è il nome del Papare, adesso mi devo ricordare esattamente il titolo, ma che è del 1990, ecco, c'è lui, c'è Manfredi che rappresenta Ciceruacchio esattamente come nella statua che stavo vedendo, cioè un uomo che guarda fieramente davanti a sé contro il plotone d'esecuzione, che si è anzi appena strappato la benda per poter guardare in faccia i suoi aguzzini, che si indica il petto, come dire stoicamente, sparate qua, e che nello stesso tempo con l'altra mano tenta di difendere il figlioletto, come dire non sparate a lui che è piccolo. Accanto a lui, infatti, accovacciato, c'è il figlioletto che avrà 12-13 anni, la statua in realtà era leggermente più grande, il quale è ancora bendato e ha la bocca aperta in uno spasimo, una richiesta estrema di pietà. Questa è la statua, e questo è anche il monologo nel film, uguale, tale quale. Ciceruacchio in piedi che parla con i suoi aguzzini, dice sparate a me, salvate mio figlio. Ma qualcosa non mi quadrava in questa storia. Dico, beh, sarebbe carino raccontare questa storia, ma trovare qualche spigolatura strana sarebbe. E c'era qualcosa che non mi quadrava sia nell'immagine della statua, sia nel film, nel monologo del film che mi tornava in mente. Allora mi infilai nel museo della Repubblica Romana, che è lì a pochi metri, dentro Porta San Pancrazio. Anzi, vi invito ad andarlo a vedere perché è sorprendentemente interessante, non è barboso, è pieno di filmati, pieno di plastici. Chi è di Monteverde ritrova un plastico della Monteverde dell'epoca in cui ritrova casa sua, magari, capito? Può essere anche interessante. Ma insomma, e là pure c'è un filmato, in questo caso interpretato da Massimo Vermüller, che fa Cicerbacchio, ma c'è anche, ci sono libri, la storia di Cicerbacchio è la seguente, ve la vado a raccontare. Cicerbacchio era, in realtà si chiamava Angelo Brunetti, era nato esattamente nel 1800 e sua mamma l'aveva chiamato Cicerbacchio perché nel dialetto dell'epoca voleva dire, come dire, tarchiato, no? Tozzo, era piccolino e largo, era molto robusto, era quadrato, lo diremmo oggi, e faceva il carrettiere, un mestiere di famiglia, mercante di bestiame, di fieno, ma comunque gestiva questo traffico nella zona di Ripetta e serviva quasi tutti i negozi del centro. Era popolano autentico, assolutamente ignorante fino in fondo, non sapeva leggere né scrivere, però era dotato di una grande parlantina. E il fatto di fare il carrettiere, quindi di circolare continuamente da una piazza all'altra del centro di Roma, gli diede la possibilità di essere conosciuto da tutti e di poter comunicare a tutti le cose che c'erano da comunicare, nel senso che lui, passando nelle piazze, lanciava, oltre al suo grido, eccomi qua, sono io che vendo queste cose, in questo caso bestiame o il fieno, quello che era, dava anche delle notizie: domani c'è una riunione tutti insieme a piazza San Cosimato perché si discuterà della legge sul pane. Organizzò in questa maniera, divenne un capopopolo quasi immediatamente. Per esempio, nel 1837 c'è il colera a Roma. Cicerbacchio, a spese sue, mette su una specie di pronto soccorso, organizzandolo così a forza di chiamare la gente di piazza in piazza, con quelli più abili a curare o a dare una mano. Nel 47 si schierò a fianco degli ebrei perché potessero commerciare anche fuori dal ghetto, e organizzò una serie di manifestazioni in cui anche i romani non ebrei chiedevano la stessa cosa. Durante l'alluvione del Tevere, chi organizzava i soccorsi? Cicerbacchio, chiamando a raccolta i romani del centro grazie ai suoi carretti. Si dice che Papa Pio IX, sapendo della grande influenza che aveva Cicerbacchio sul popolo di Roma, lo chiamasse spesso per consultarsi con lui in vista di nuovi provvedimenti da prendere. Cicerbacchio, come lo prenderà il popolo questa cosa sul pane? Dobbiamo aumentarlo un pochino, ma tu che dici? Insomma, pare che Cicerbacchio desse dei consigli al Papa, analfabeta com'era, ma il Papa lo aveva eletto anche come era una specie di ambasciatore del popolo presso il Papa, era diventato questo. Tanto che Cicerbacchio, che era pian piano diventato anche appassionato, diciamo liberale, ecco, a modo suo, ma comunque pensava a un'Italia unita sotto un unico re, e anzi pensava che dovesse governarla il Papa stesso. Tant'è vero che, a forza di parlare di queste nuove idee con il Papa, Papa Pio IX si era fatto un po' convincere e aveva cominciato a emettere delle leggi e dei provvedimenti abbastanza liberali. In tutta Italia si diceva: ma guarda un po', chi si aspettava che il governo più avanzato d'Italia in queste idee fosse proprio quello papale? Il buon Cicerbacchio era talmente contento di essere riuscito a convincere il Papa e piano piano a portarlo sulle sue idee, che cominciò ad andare in giro con un panciotto, di cui una copia è conservata proprio nel museo della Repubblica Romana al Gianicolo, un panciotto su cui c'era scritto «Viva Pio IX, viva Pio IX, viva Pio IX». Quindi andava in giro a fare reclam e a inneggiare al suo Papa liberale. Fatto sta che presto le cose cambiarono, e quando Pio IX arrivò a mandare addirittura delle truppe pontificie a Venezia. Venezia era insorta nel 48 contro gli austriaci, e il Papa disse: va bene, mando le mie truppe per cercare di aiutare questi poveri fratelli veneziani contro gli austriaci. Mandò l'esercito, ma il suo primo ministro, Pellegrino Rossi, dopo aver parlato con tutti i vari alleati europei che aveva la Santa Sede, in un colloquio privato con il Papa, lo convinse a cambiare drasticamente idea. Sua Santità, gli austriaci sono comunque una potenza cristiana. Attaccandola direttamente con il vostro esercito, voi rischiate lo scisma. È una cosa che politicamente è assolutamente sbagliata. Vi siete fatto trascinare. Il Papa, nel giro di 2 giorni, fece un voltafaccia clamoroso. Ritirò l'esercito, fu richiamato indietro. L'esercito dovette fare marcia indietro ed era già arrivato in Veneto. Soltanto una parte si ribellò, rimase lì, ma gran parte di loro dovettero tornare indietro. E ritirò nel giro di pochi giorni tutte le leggi liberali che aveva già emesso. Ciceruacchio si arrabbiò moltissimo, stracciò il suo gilet con scritto Viva Pio IX e si gettò anima e corpo negli ideali mazziniani, cercò contatto diretto con i mazziniani. Dopo poco successe che Pio IX fu costretto per la rivolta popolare a Roma a scappare a Gaeta e ritroviamo, eccolo lì, il nostro Ciceruacchio accanto sul Gianicolo nel 49, accanto ai Garibaldini, a Saffi, a Armellini, a combattere contro i francesi accorsi a liberare Roma dai facinerosi, ecco, e a combattere accanto a Garibaldi, lui e i suoi figli. Insomma, ve la faccio breve perché dobbiamo arrivare comunque al nostro monumento. L'impresa romana andò come andò, i francesi riuscirono a sfondare a San Pancrazio, riuscirono a entrare, i garibaldini furono costretti a fuggire da Roma, soprattutto quelli più conosciuti, e accanto a Garibaldi chi fuggì verso nord, verso San Marino, verso Comacchio, come sappiamo la storia, dove ci fu anche tra questi fuggitivi, c'era anche Ciceruacchio con i suoi figli. Ecco, nel leggere la storia leggo anche questo: i suoi figli. Accanto a lui c'erano Gigi e Lorenzo. Lorenzo era il ragazzino raffigurato, 12-13 anni. E Gigi, che fu fucilato anch'egli, aveva intorno agli 18-19 anni. Perché non viene ricordato nei monumenti, nelle targhe? Perché è scomparso perfino dal film? Perché addirittura nel sito in cui si narra la storia di Ciceruacchio, quindi sto parlando di una sorta di censura che continua anche oggi. Ebbene, mi sono informato e ho capito che cosa è successo. Dunque, fu soltanto alla fine dell'Ottocento che fu formato un comitato per costruire un monumento a Ciceruacchio. Questo comitato, formato da grandi letterati, assegnò l'opera a Ximenes, che era un grande scultore dell'epoca, siciliano, il quale è lo stesso che ha fatto la statua al Gianicolo di Garibaldi. Gli affidò quest'opera e sulla base di un bozzetto lui aveva preparato. Ebbene, la prima versione del bozzetto io ce l'ho. Nella prima versione, accanto a Ciceruacchio, ci sono tutte e due i figli. Cosa è successo? È successo questo, che a quel punto siamo nel 1892, per capirci è l'anno in cui De Amicis stampa Amore e Ginnastica, Conan Doyle stampa Le avventure di Sherlock Holmes. In quell'anno stava succedendo di tutto. E qualcuno del governo ha dovuto parlare con Ximenes, non sappiamo bene chi sia stato, e dirgli: dottor Ximenes, voi avete vinto questo bando nazionale e ce ne congratuliamo, ma dal bozzetto che noi abbiamo risulta presente, accanto al Brunetti, detto Ciceruacchio, e a suo figlio Lorenzo, anche Gigi. Ebbene, voi dovreste saperlo, Gigi fu accusato di aver compiuto l'attentato in cui fu ucciso Pellegrino Rossi, il primo ministro del Papa. Voi capite, un attentatore, Probabilmente un anarchico, uno che ha ucciso un ministro, attenzione, non un ministro qualsiasi, un ministro del Papa. E di questi tempi non mi sembra una cosa giusta. Se voi tenete a conservare la vittoria di questo bando, eliminatelo. Sapete cosa sta succedendo? Nell'ultima settimana ci sono stati due attentati al re. Bava Beccaris sta pensando di cannoneggiare la folla a Milano che protesta per il pane. Non ci sembra tempo di poter mettere in un monumento un attentatore il giorno dopo. Gigi, il figlio maggiore di Ciceruacchio, scomparve dal monumento e dalla storia. E ora quello che io vorrei fare oggi è idealmente rimettere accanto sul Gianicolo, accanto al monumento, accanto a Ciceruacchio, anche il suo figlio maggiore trucidato, ingiustamente, perché sappiamo dalle carte che con ogni probabilità non partecipò realmente all'attentato a Pellegrino Rossi, quindi assolutamente non era un'accusa ingiusta, e che un ragazzo che comunque ha combattuto, fu ferito durante le battaglie a Roma e poi fu trucidato ingiustamente da un plotone che sappiamo croato, ecco, sappiamo anche questo. Rimettiamolo al suo posto e quando passeremo davanti al monumento a Ciceruacchio, rendiamoci conto che manca un ragazzo al quale forse dobbiamo ancora un applauso che lui non ha mai avuto. Garibaldi fissa il mare, tira un sorso di rum, che di Marsala qui a L'Avana non ne sbarcano più. Ripensa ai fichi d'India della terra natia, le notti calde giù a Bahia, che malinconia. E attacca banda e sia una samba sia suonata da Dio, c'è il Garibaldi innamorato per l'estate di Rio. Cappello a larghe falde sotto un poncio marron e sotto il poncio Anita mia. Batte un corazon, posso darti solo amore, tutto quello che vorrai, posso darti solo amore. Garibaldi è ricercato in tutti i mari del sud, ma non si può tagliare la barba per questioni di look. Anita dice Peppe, quando gioca il Brasil si va a vederlo in Italia. Pensaci Peppi, posso darti solo amore, tutto quello che vorrai, sì lo so non è questione. Mistero della partitura sporca d'olio. Questa spigolatura parte da un foglio che non potete vedere per radio, un foglio. Io me ne sono fatto addirittura una copia. È un foglio, vi faccio sentire il rumore però. Ecco, questo è un rumore di foglio. Un foglio dovreste vederlo, sembra quasi bruciato, è nero, sporco, spiegazzato, con alcuni buchi qui e là. che cos'è? Che c'entra con il Risorgimento? Che c'entra col Gianicolo? Datemi tempo, ci arriviamo insieme. Cosa c'è scritto su questo foglio? Non potete vederlo, è un foglio musicale. È una partitura musicale scritta fitta fitta con un pennino, una calligrafia molto regolare, da persona precisa. Ci sono delle note musicali sul pentagramma e sotto c'è il testo, il testo, perché ci sono larghe parti cantate di questa partitura. È una canzone, si direbbe, ma comunque la partitura è talmente sporca da essere quasi illeggibile. È completamente, come direi, unta, ma forse. Andiamo avanti. La calligrafia, questa calligrafia precisa di cui vi parlavo, di chi è? Vi do un dato. È di un tizio che si chiamava Michele Novaro, oscuro musicista ligure. Era nato a Genova nel 1818, poi si era trasferito a Torino. Non un grande musicista, non è mai passato alla storia, non è mai diventato qualcuno. Passò a Torino con un contratto di secondo tenore e poi faceva il maestro dei cori. Il massimo dell'acme della sua carriera fu quando diresse il coro del Teatro Regio e Carignano di Torino. Insomma, vivacchiava, ma aveva una seconda vita, notturna. Ebbene, Michele, di notte, frequenta i carbonari. Passo al presente storico perché è più incisivo. E mentre di giorno canta e fa cantare, per esempio, era la sua specialità, la Missa Solennis in Si minore di Bach, di notte, convinto liberale, anticlericale, altro che Messa Solennis, altro che Messa, lui musica di notte decine di canti patriottici, per lo più orribili, ma insomma, e organizza spettacoli per la raccolta di fondi destinati alle imprese garibaldine. Ebbene sì, un po' sfigato si direbbe, ma garibaldinissimo, nonostante abbia scritto questa musica, questa di questo foglio che facevo vedere, che invece poi in qualche maniera è diventata importante. In tutta la vita lui, da questo foglio di carta, fondamentale addirittura per l'Italia, non trasse neanche una lira, ma neanche dopo l'Unità d'Italia, niente. Oggi quasi nessuno sa chi fosse Michele Novaro, almeno voi ricordatevelo per piacere. Tornato a Genova, in vecchiaia, tra 1864 e 65, fondò una scuola di canto, una scuola corale popolare, così si chiamava, alla quale dedicò tutto il suo impegno. Morì poverissimo il 21 ottobre dell'85, 1885, in preda a difficoltà finanziarie immense e da problemi di salute. Unica consolazione, i suoi allievi, sapendo quali fossero le sue passioni, l'hanno sepolto nel cimitero di Staglieno, vicino alla tomba del suo amatissimo Mazzini. Se andate a Staglieno, entrate nel cimitero, è ancora lì, lo vedete. Quella tomba un po' sfigata accanto a quella di Mazzini è la sua, Michele Novaro. Alla fine di questa storia saprete anche di chi sto parlando, un po' più di quanto ne sapeste prima. Ora parliamo, torniamo sempre al nostro foglio, che vi faccio sempre sentire, eccolo qua, e ora parliamo dei versi segnati sotto le note. Sono di un ragazzo seppellito nel Sacrario Garibaldino al Gianicolo, ed ecco che veniamo a me. Li scrisse nel 1847, stava per laurearsi in filosofia all'Università di Genova. Non terminò mai gli studi perché era uno scavezzacollo e perché era un liberale, gli eventi della patria lo attirarono verso altre mete, diciamo così. Nel marzo del 48, dopo aver radunato 300 giovani, partì con loro alla volta della Lombardia, dove prese parte alla prima guerra d'indipendenza, nel corso della quale conobbe Mazzini. Tornato a Genova per ispirazione di Mazzini, compose un inno militare che fu musicato addirittura da Giuseppe Verdi, anche se oggi insomma non viene mai eseguito. Divenne poi un fervente ammiratore di Garibaldi, che lui raggiunse a Ravenna, seguendolo poi a Roma, eccolo qua, dove da poco era fuggito Papa Pio IX. Eccolo che questo ragazzo, a quel punto 22enne, va a finire a Roma, al Gianicolo, a combattere contro i francesi accanto a Garibaldi. Tra una battaglia e l'altra, continuava a scrivere poesie patriottiche, alla lettura di oggi quasi illeggibili, ma insomma era un ragazzo sincero e di allora, per il gusto di allora, un'ottima penna. A Roma scrisse una serie di articoli, per esempio per giornali, articoli politici, faceva una sorta di su un giornale locale, e soprattutto, giovane com'era, 22 anni, arringava le folle nei comizi. per a Roma nelle piazze per dimostrare l'opportunità di creare una costituente italiana. Insomma, visto che a Roma si era costituita la Repubblica Romana, tutto contento di aver radunato attorno a Garibaldi molte persone, convincendole personalmente, se ne tornò a Genova, perché aveva saputo che anche Genova era insorta e allora voleva partecipare anche alle battaglie nella sua città. Ma appena giunto a Genova viene a sapere che appunto a Roma erano arrivati i francesi. Cosa fa? Ritorna a Roma di corsa, via mare, appena in tempo per partecipare alle battaglie proprio del Gianicolo. Viene ferito a Villa Spada, che è su via Medici, oggi è un'ambasciata irlandese presso la Santa Sede. Fu ferito da fuoco amico, tra l'altro, tristemente. Non volle farsi curare perché disse: no, non ha niente, mi fa male solo quando rido. Non disse esattamente questa frase, ma insomma qualcosa del genere. Si rifiutò di farsi curare subito e quando si fece decise di farsi curare era troppo tardi, e lì conobbe, ferito sul Gianicolo, la rivoluzionaria più bella del mondo, Cristina Trivulzio, principessa di Belgioioso. Signori, nessuno ne sa nulla, ma questa donna ha scritto un pezzo della storia d'Italia ed era una donna formidabile. Era milanese, patriota fin da giovanissima, una pazza per l'epoca. Era strepitosamente bella, nel contempo la più ricca ereditiera d'Italia. Portò al matrimonio una dote di 400.000 lire austriache, non so, un qualcosa che sia vicino ai 100 milioni di euro odierni. Aveva solo 16 anni quando acquisì il titolo di principessa. Era ricca, bella, poteva starsene tranquilla, fare la nababba a casa sua. Invece no, no, Cristina Trivulzio, principessa di Belgioioso, non poteva starsene con le mani in mano mentre a Roma succedeva il 48. Alla fine degli anni 20, già dalla fine degli anni 20, Cristina si avvicinò al movimento liberale. E bella, potente e nobile come era, poteva dare molto fastidio. Fortunatamente la sua fama, la sua posizione sociale la salvarono dagli arresti, perché suo nonno, il marchese Maurizio dei Gherardini, era gran ciambellano dell'imperatore d'Austria. E poi fu addirittura ministro plenipotenziario d'Austria presso il regno Sabaudo. Quindi un arresto della nipote avrebbe ulteriormente ingigantito lo scandalo, per cui la richiamavano le autorità, la riportavano all'ordine, ma tendenzialmente non le facevano nulla. Fatto sta che lei proteggeva molti rivoluzionari e addirittura si improvvisò editrice di giornali rivoluzionari, tanto fece che la polizia però alla fine le congelò tutti i beni e lei fu costretta a fuggire in Francia. Cristina Trivulzio, principessa di Belgioioso, esule in Francia, visse a Parigi e lei, principessa e diciamo miliardaria dovremmo oggi, si guadagnò da vivere cucendo pizzi e coccarde. Però proprio perché era una persona speciale, pur ridotta a fare la ricamatrice e vivendo in un tugurio a Parigi, frequentò Heinrich Heine, Franz Liszt, Mignet, Alfred de Musset e tanti altri. Le attribuirono tanti amanti, tanti da non poterne tenere il conto e da non poterne anche capire quanti fossero veri e quanti soltanto così indicati dal gossip dell'epoca. Aveva mollato nel frattempo il marito, che era un nobile, con cui condivideva però il pensiero politico, ma erano estremamente liberali, cioè coppia aperta, non ce l'aspettavamo dall'epoca. Cominciò a pubblicare articoli politici suoi e degli altri. Siccome era troppo facinorosa per l'editoria dell'epoca, appunto fu costretta a diventare ella stessa editore di giornali politici. Nel 1834 dona 30.000 lire per finanziare, che era riuscita a sbloccare, per finanziare il colpo di mano mazziniano nel regno di Sardegna. Nel 38 le nasce una figlia, Maria, figlia di un rivoluzionario che lei non ha mai voluto dire chi fosse, non si sa chi sia, e che non ha mai diviso con lei la paternità di questa figliola. Lei diceva: il padre di mia figlia, un rivoluzionario, tanto basta. Durante una vacanza conosce Luigi Napoleone Bonaparte, che diventerà tra poco Napoleone III. Riuscendo a strappargli una promessa, probabilmente essendo amante anche di lui, seppur per poco tempo, dopo che avrà acquistato potere in Francia, lui cercherà di operare a favore della causa risorgimentale italiana. Un giuramento che lei rese noto appena poté in Italia. E comunque, durante nel 1848, trovandosi a Napoli durante l'insurrezione che porta alle 5 giornate di Milano, Milano parte subito per Milano e paga il viaggio di circa 200 napoletani che decidono di seguirla fino a Milano. Fanno le 5 giornate di Milano. Lei viene quasi catturata, costretta all'esilio un'altra volta. Passato un anno, Cristina, Trivulzio, Belgioioso si ritrova in prima linea anche a Roma, sempre sul Gianicolo, sempre accanto a Garibaldi, a Ciceruacchio che abbiamo detto prima. Nell'insurrezione divampata dal 9 febbraio al 4 luglio c'è la battaglia contro i francesi del 1849, arrabbiata a morte contro il suo Napoleone III, che invece di accorrere in soccorso di Garibaldi ha mandato le truppe francesi a combatterlo. Garibaldi ce l'aveva a morte con lui, insomma. Finita l'avventura romana, poi vi racconterò cosa è successo sul Gianicolo in quei giorni, per cui ci interessa lei. Comunque, finita l'avventura romana, sconfitti Garibaldini, fuggì su una nave diretta a Malta e poi andò in Grecia e finì per abitare in un villaggio in Asia Minore, nella sperduta e desolata valle di Çakmakoglu, vicino all'odierna Ankara. Poi ha fatto altre 100.000 cose, non ve le sto a dire, morì molto anziana, ma a seguire le sue tracce ci si perde. Ricordatevi solo questo nome, Cristina, principessa di Belgioioso, una donna che veramente ha scritto la storia d'Italia. Ma torniamo al 49, a Roma. Durante le battaglie del Gianicolo, a Cristina Trivulzio, principessa di Belgioioso, assegnarono l'organizzazione degli ospedali, compito che assolse con dedizione, tanto che fu considerata l'antesignana di Florence Nightingale, cioè la prima crocerossina. Fu lei ad accogliere Goffredo Mameli, il musicista di cui parlavamo prima, 22enne, che aveva scritto le musiche di quel foglio tutto rovinato che ho qui, di cui faccio risentire il rumore. Lui aveva 22 anni, lei quasi 39, ma faceva ancora strage di cuori. Ora non ne sappiamo nulla, ma come non immaginare che Goffredo Mameli, nelle febbri dell'infezione, non si innamorasse perdutamente di questa donna? Oppure quantomeno, ecco, me l'immagino in un film, strappalacrime, lui riverso in terra nella piazzola di San Pietro in Montorio, che all'epoca veniva chiamata San Pietro in Mortorio, perché ci accumulavano i feriti, che quasi tutti morivano purtroppo. Una donna si avvicina a lui ferito, lo solleva per dargli da bere, lui apre gli occhi, nelle nebbie che ormai velano il suo sguardo appare il volto di un angelo. Goffredo sorride e muore felice. Questa è una mia immaginazione. Ho iniziato parlandovi di questo foglio sgualcito e sporco, poi ho parlato di Novaro, autore delle musiche, poi di Mameli, autore delle parole. È evidente che questo foglio, che oggi è conservato al Museo del Risorgimento di Genova, è l'originale della prima stesura dell'inno di Mameli. Ma perché è ridotto così? Ebbene, io l'ho scoperto. Dovete sapere, chi è di Monteverde conosce via Barrili. Ebbene, Alberto Barrili era anche lui un progressista mazziniano garibaldino, che alla fine di tutto scrisse la biografia di Goffredo Mameli. E in una sua pagina troviamo questa testimonianza. Siamo a Torino. Colà, in una sera di mezzo settembre, in casa di Lorenzo Valerio, fior di patriota e scrittore di buon nome, si faceva musica e politica. Infatti, per mandarle d'accordo, si leggevano al pianoforte parecchi inni sbocciati appunto in quell'anno per ogni terra d'Italia, da quello del Meucci di Roma, musicato dal Magazzari, dal titolo del nuovo anno già l'alba primiera, al recentissimo del piemontese Bertoldi, con l'azzurra coccarda sul petto, bel titolo, musicata da Rossi. In quel mezzo entra nel salotto un nuovo ospite, Ulisse Borzino, l'egregio pittore che tutti i miei genovesi rammentano, no? Giungeva egli appunto da Genova. Voltosi al Novaro con un foglietto che aveva cavato di tasca, a quel punto disse: «Oh, te lo manda Goffredo!» Il Novaro apre il foglietto, legge, si commuove. Gli chiedono tutti che cos'è, gli fanno ressa d'attorno. «Una cosa stupenda! Una cosa stupenda!» esclama il maestro e legge ad alta voce: «Fratelli d'Italia, Italia si destra, solleva d'entusiasmo tutto il suo uditorio!» Io sentii dentro di me qualche cosa di straordinario che non saprei definire adesso. So che piansi, che ero agitato, non potevo star fermo. Mi posi al cembalo coi versi del Goffredo sul leggio e strimpellavo, assassinavo con le dita convulse quel povero strumento, sempre con gli occhi all'inno, mettendo giù frasi melodiche l'una sull'altra, ma lungi le mille miglia dall'idea che potessero adattarsi a quelle stupende parole. Mi alzai alla fine scontento di me, mi trattenni ancora un po' in casa Valerio, ma sempre con quei versi davanti agli occhi, nella mente, vidi che non c'era rimedio. Presi congedo e corsi a casa mia, là, senza neppure levarmi il cappello, mi buttai al pianoforte. Mi tornò alla memoria il motivo strimpellato in casa Valerio. Lo scrissi su un foglio di carta, il primo che mi venne alle mani. Nella mia agitazione, però, rovesciai la lucerna sul cembalo e per conseguenza anche sul povero foglio. Fu tutto lordato d'olio e fu questo l'originale dell'inno Fratelli d'Italia. Noi fummo da secoli calpesti, derisi, perché non siamo popolo, perché siamo divisi. Questo è il pezzetto che abbiamo mandato dell'inno. Sono, secondo me, i versi più rappresentativi. Titolo della prossima spigolatura è La Garibaldina en travestì. Ebbene, dovete sapere, su Gianicolo, già vi ho detto, no? Già sapete, ci sono ben 84 busti risorgimentali, no? Oltre ai monumenti, ai vari monumenti sparsi a Garibaldi, ad Anita, ma i busti sono 84. Ebbene, se voi da Piazza Garibaldi imboccate del doppio viale che porta verso l'uscita, quello di sinistra che porta verso il fontanone, e guardate il terzo busto che incontrate sulla destra, ecco, osservatelo bene. È un garibaldino, come tutti gli altri, vestito da garibaldino. Ma questi tratti del viso, che sono, come dire, molto, molto, molto, molto eleganti, direi pure femminei, ebbene, leggiamo il nome, Colomba Antonietti Porzi. Ebbene sì. Della brigata agli ordini di Garibaldi facevano parte, tra gli altri, 400 studenti universitari, 300 doganieri, 300 emigrati, fino a formare un tutto di 2500 uomini, tra i quali c'erano, nonostante, dicevo, 2500 uomini, tra i quali, nonostante l'apparente contraddizione grammaticale, molte donne, che la numerazione ufficiale non rileva. Alcune donne a tutti gli effetti, vestite da donna, che si comportavano da donna, che giravano tra linee come portalettere, come vivandiere, eccetera, eccetera, ma in alcuni rarissimi casi donne garibaldino a tutti gli effetti. Colomba era nata a Bastia, quella che oggi è Bastia Umbra, in provincia di Perugia, nel 26. Colomba visse i primi anni della sua prima giovinezza a Foligno, dove lavorava nel forno municipale, era fornaia come tutta la sua famiglia. Ebbene, l'Umbria faceva parte dello Stato Pontificio, no? Accanto al negozio di panettiere c'era il corpo di guardia della guarnigione pontificia, dove prestava servizio il cadetto Conte Luigi Porzi di Imola. Questa cosa mi colpisce particolarmente perché mia moglie si chiama Porzi, e allora scoprire che c'era una donna garibaldina il cui cognome era Porzi mi ha portato naturalmente a indagare. Fossi sposato con una garibaldina, con una nipote di garibaldina. Ebbene, Questi due giovani, Colomba Antonietti e Luigi Porzi, ebbero così modo di incontrarsi a Foligno e di innamorarsi. Lei era all'epoca diciottenne e viene descritta come alta, snella, occhi e capelli nerissimi. Lui un pochino più grande, e, insomma, dovettero affrontare le resistenze delle famiglie perché lui era nobile e lei era panettiera, però si sposarono in segreto, fecero la cosiddetta fuitina, e, insomma, e la loro coppia divenne una coppia a tutti gli effetti di sposi. E, dunque, lui non aveva chiesto però il permesso alle autorità militari per sposarsi, mentre bisognava chiederlo. E quando la cosa venne alla luce, come da regolamento, fu arrestato e recluso a Roma, dentro Castel Sant'Angelo, a scontare un periodo di carcere. Fortunatamente ai due sposi non fu impedito di vedersi, riuscirono a vedersi durante il giorno. Però quel periodo di prigionia a Roma sviluppò questo periodo nel giovane ufficiale e anche in Colomba l'odio contro l'oppressione e i sentimenti che non fossero più che liberali. E, insomma, si avvicinarono così alla causa dell'indipendenza nazionale e cominciarono a scrivere lettere alla famiglia in cui dicevano: anche voi perché non partecipate a queste lotte. Insomma, allo scoppio della prima guerra di indipendenza del 48, Porzi, ormai libero, corse volontario al nord con le truppe guidate dal generale Durando. Ho già raccontato prima che Papa Pio IX a un certo punto mandò delle sue truppe a Venezia a combattere insieme ai veneziani insorti contro gli austriaci. Di queste truppe faceva parte anche il nostro Porzi, però Luigi Porzi. Però la nostra Colomba non riuscì ad allontanarsi dal suo uomo. E allora che cosa fece? Un espediente. Si tagliò i capelli cortissimi, si vestì da militare e riuscì a farsi passare per tale con una serie di espedienti, e partì anch'ella come militare a tutti gli effetti nelle battaglie di Venezia. I due si ritrovarono nell'unico battaglione che non tornò a Roma richiamato dal Papa, ma che continuò a combattere in contrasto con le leggi del Papa. Finita la guerra e venendo sconfitti dagli austriaci, questo battaglione fu integrato nell'esercito sabaudo, e quindi i due continuarono tutti e due a essere soldati, questa volta sotto e a combattere nelle varie guerre di indipendenza, ma sotto il dominio sabaudo. Nell'assedio di Roma ce li ritroviamo alla fine tornati a combattere accanto a Garibaldi. Ormai si erano spogliati di ogni divisa, sia sabauda che di altri eserciti, avevano partecipato un po' a tutte le battaglie d'Italia, sempre come coppia, sempre lei travestita da uomo. Si ritrovarono in prima linea anche a Roma accanto ai garibaldini. Abbiamo una prima loro traccia da questa cosa, che da una l'assedio di Roma, che è uno scritto di Francesco Domenico Guerrazzi, chi è di Monteverde sempre sa che c'è via Guerrazzi, altro patriota dell'epoca, e che scrive questo della battaglia di Roma del Gianicolo: aperte le brecce, ferve l'opera per metterci riparo, un vero turbine di ferro e di fuoco mulinava sull'area avversa alle brecce francesi, e una moltitudine di cannonate le scavalcava per seminarvi purtroppo la morte. Tu vedevi i romani brulicare come formiche, portando sacca, sassi, trainando carretti di terra, né i romani soli, ma anche le romane, e fra queste Colomba Antonietti, che non potendo lasciar solo il marito esposto al pericolo, volle a ogni costo parteciparlo, e in cotesta vita ella aveva durato 2 anni che lo sposo suo accompagnò in tutte le guerre d'Italia, e a Velletri fu vista percorrendo incorare i soldati, e in quel giorno la supplicarono di là si rimuovesse per lo suo pericolo, ed ella sorridendo: ma se ci lascio il marito morirei di affanno. Poi il 13 giugno, alla disperata difesa del quartiere Porta San Pancrazio di Roma, dove i francesi avevano aperto la breccia, avvenne ciò che Garibaldi ci racconta. Ebbene sì, nelle memorie di Garibaldi c'è una pagina dedicata a lei. Garibaldi non si era accorto che Colomba fosse una donna, per lei era un soldato come gli altri. E scrive questo: la palla di cannone era andata a battere contro il muro e, ricacciata indietro, aveva spezzato le reni di un giovane soldato, Il giovane soldato posto nella barella aveva incrociato le mani, alzato gli occhi al cielo e reso l'ultimo respiro. Stavano per recarlo all'ambulanza quando un altro ufficiale si era gettato sul cadavere e lo copriva di baci. Quell'ufficiale era Porzi e il giovane soldato, scoprimmo, era Colomba Antonietti, sua moglie, che lo aveva seguito a Velletri e combattuto a suo fianco, morta ed eroica. Queste le parole di Garibaldi. Colomba morì compianta nei giornali dell'epoca e anche nelle parole degli storici, dei politici, ma la manifestazione più alta l'ebbe dal popolo romano, che l'accompagnò il suo feretro coprendolo di rose bianche, seguendolo lungo le vie di Roma fino alla cappella di Santa Cecilia all'Accademia Musicale, dove la salma fu tumulata. Il suo nome risulta accanto a quello del marito, scolpito in molte lapidi che ricordano i caduti delle guerre risorgimentali. È soltanto che si continua a fare un errore ogni tanto. Mi segnalano che sulla lapide collocata nel prospetto principale del Senato di Roma il nome di Colomba Antonietti compare nella seguente versione: Pozzi Antonelli Colombo, errata al maschile. Ebbene, basta con questa storia. Furono tante, eroiche quanto gli uomini, le donne che fecero dell'Italia un progetto e una realtà. Dobbiamo ricordarle e venerarle almeno quanto veneriamo i loro compagni. Patriota o reclam? Chi è di Bologna conosce via Ugo Bassi, è una via principale di Bologna che collega le torri degli Asinelli con piazza San Petronio, è una delle arterie principali, come dire Roma via del Corso, che ne so, una via importantissima. E chi è di Bologna, ma anche chi non è, forse avrà passeggiato visitando Bologna per via Ugo Bassi. Bene, qualcuno avrà notato che al centro di questa via, in un slargo, c'è il monumento a Ugo Bassi. Oddio, chi era costui? Il monumento, adesso devo cercare di descriverlo, si tratta di un uomo austero vestito da con abiti vagamente religiosi, perché vestiva da religioso ma non del tutto, convenzionale, diciamo. Ha un'aria severissima, è assolutamente in piedi dritto, assolutamente composto nella postura, tranne un braccio. Un braccio che è teso, con la mano tesa e un dito a puntare verso l'orizzonte. Non direi l'orizzonte perché siamo in una piccola piazza. Ebbene, da bambino io frequentavo Bologna perché ho parenti a Bologna e ho un ricordo precisissimo di questa statua, mi faceva un po' paura. Questo omone altissimo che guardava arcigno tutti e indicava verso un punto preciso. E mi ricordo anche che sotto il piedistallo di questa statua c'era un cartello scritto per lo più con un pennarello, mi ricordo una scritta insomma a mano, però fatta o con un pennellino o con un pennarellone, non lo so, c'era, io mi ricordo soltanto questo, che c'era scritto Adla Ashmagne Bing the Boom. Allora, Adla, devo tradurre, Adla, cioè Adla Ashmagne Bing, lì si mangia bene, ma da boom, ma davvero, quindi là si mangia bene, ma per davvero. Ora, vedendo la statua e leggendo Adla Ashmagne Bing the Boom, tutti seguivano il dito, no? Questo braccio teso e il dito che in effetti andava a indicare una trattoria, una tra le più antiche trattorie di Bologna, e che quindi era il monumento si era trasformato nel tempo in una pubblicità assolutamente impropria di un esercizio commerciale. Devo dire, si mangiava benissimo, quella trattoria era molto conosciuta all'epoca. Questa cosa, adesso ripassando per Bologna, mi ha un po' incuriosito, perché finalmente ho visto il monumento senza questa scritta alla base, ma è stata scoperta la vera scritta Ugo Bassi, religioso e patriota. E mi sono chiesto la storia di questa statua e del suo posizionamento. Ebbene, a fine Ottocento, tra le varie commissioni che si istituirono in Italia perché fossero costruiti i monumenti che celebrassero il Risorgimento all'Italia Unita, c'era una commissione che aveva avuto a capo addirittura Giosuè Carducci. Bene, questa commissione aveva deciso che a Bologna doveva esserci il monumento a Ugo Bassi. L'idea è che dovesse da Bologna indicare verso Roma come obiettivo ultimo delle lotte rivoluzionarie. Beh, bisogna fare una brevissima storia di Ugo Bassi, perché parliamo di Ugo Bassi. Anche lui era al Gianicolo, era il cappellano di Garibaldi, combatté al suo fianco, che è anche uno che sapeva mollare anche dei ceffoni all'occorrenza. Grande parlatore, un uomo da un abile predicatore, si era conquistato da giovane l'attenzione degli altri per la signorilità dei modi, per l'enorme sua memoria, per cui riusciva a citare testi classici per ore e ore senza mai fermarsi, senza avere neanche un'esitazione, e se lo contendevano per le sue prediche, curie di tutta Italia, Roma, Milano, Bologna, Palermo, Trapani, Messina, Livorno, Ancona, Cesena, Faenza, Lugo, Venezia, leggo qui un elenco lunghissimo, faceva praticamente delle tournée, però la sua estrema libertà di pensiero e di parola ne facevano un prete un po' scomodo, perché insomma lui era contro il potere temporale del Papa. Lui cominciò a dire che il Papa, vabbè, non era giusto che avesse un esercito, doveva governare lo spirito delle popolazioni, ma non doveva avere a che fare con il potere temporale, e questa è una cosa che chiaramente ai suoi superiori ecclesiastici dava molto fastidio, tanto che fu emarginato dalla vita, diciamo, religiosa, e si ritrovò, però trovò il suo spazio comunque nelle lotte liberali, e ce lo ritroviamo a Roma, ripeto, accanto a Garibaldi. Fuggì da Roma, ne abbiamo già conosciuti un po' di questi, che finita l'avventura romana fu costretto a fuggire verso il nord con Garibaldi, Anita, Ciceruacchio e tutti gli altri, verso il nord, fu catturato anche lui in quel in Romagna, e fu trascinato in catene a Bologna. La curia, saputo che un religioso era stato catturato, che stava per essere fucilato come garibaldino, tentò di intervenire, ma non ci fu niente da fare. Fu, insieme a un gruppo di altri suoi seguaci, fu fucilato nella piazza retrostante a Piazza San Petronio a Bologna. Questa è la storia di Ugo Bassi, ed è il motivo per cui gli si è fatto un monumento. Allora, stavamo indagando sul perché la statua è lì e ha quella forma. Ho scoperto che della famosa commissione di cui faceva parte Giosuè Carducci, che doveva decidere il monumento, faceva parte anche un tal Pinin, che era un po', come dire, a capo della commercio della Bologna dell'epoca, e che casualmente era anche il proprietario di quella trattoria, guarda un po', guarda caso. E ho scoperto anche che, andando a calcolare l'angolazione, insomma la disposizione della statua, la statua in realtà non indica esattamente verso Roma, semmai indica verso Foligno o ancor più verso verso l'interno, quindi c'è un errore anche di parecchi gradi nella disposizione di questa statua. Ebbene, qui Gatta Cicova, questo Pinin, proprietario dell'osteria, abbiamo scoperto che aveva imbrogliato le carte in modo che la statua fosse fatta in quel modo e che casualmente indicasse verso la sua trattoria. Oggi però, vi prego, strappiamo la figura di Ugo Bassi a quella della storia della pubblicità ingannevole e restituiamolo alla storia d'Italia. Grazie. Morte a Franz, viva Oberdan! Morte a Franz, viva Oberdan! La vera storia dei bambini patrioti. Bene, noi oggi siamo abituati a pensare che i bambini non debbano lavorare, che i bambini debbano andare a scuola, che i bambini tutto debbano fare tranne che partecipare alle guerre. Bene, nell'Ottocento non era così. Era assolutamente, nell'Italia dell'Ottocento era assolutamente naturale che i bambini lavorassero, che i bambini non andassero a scuola e che fossero addirittura utilizzati durante le guerre. E quindi una cosa che vorrei fare con questa spigolatura è restituire al loro giusto posto il ruolo dei bambini durante le guerre del Risorgimento. Ebbero un ruolo fondamentale. Tutto partiamo da Milano. Ci sono due maniere diverse di organizzare la vita a Milano e a Roma, e lo è anche in questo caso. A Milano, durante le 5 giornate di Milano del 48, il governo provvisorio si rivolse ai Martinit. Non so se sapete cosa sono i Martinit. I Martinit è praticamente un istituto che raccoglie i bambini che sono senza padre e senza madre, insomma, abbandonati. A Milano la cosa era organizzata così fin dai primi dell'Ottocento. Questi bambini venivano raccolti, venivano fatti studiare, per mezza giornata, quindi imparavano a leggere e a scrivere, cose per cui potevano da questo punto di vista considerarsi fortunati rispetto ai bambini normali, perché quasi nessuno studiava. Invece i Martinit sapevano leggere e scrivere, e nel pomeriggio venivano prestati dal collegio dei Martinit alle varie botteghe artigiane della città, guadagnandosi uno stipendio che veniva versato all'istituto dei Martinit, il quale se ne tratteneva i tre quarti, però un quarto di questo stipendiuccio glielo accantonava e lo dava a questi ragazzi una volta che fossero usciti dal collegio, una volta diventati grandi. Molti di questi ragazzini, ritrovandosi alla fine con una cultura superiore alla media, perché sapevano leggere e scrivere, e con un mestiere, perché lavorando fin da bambini nelle botteghe artigiane avevano imparato un mestiere, molti di questi bambini alla fine hanno fatto strada, e tra di loro si contano molti intellettuali, molti tutt'oggi, se si va alle riunioni dei Martinit di Milano si incontrano molti personaggi poi diventati famosi, quindi è un'istituzione che continua a essere gloriosa. Ebbene, durante le 5 giornate di Milano il governo provvisorio richiedeva al direttore dell'orfanatorio maschile, abbiamo un documento che ho trovato qua, ecco qua, richiedeva all'orfanatorio maschile 24 orfani fra i più intelligenti da porre a disposizione del comitato di guerra. Questa richiesta venne ritirata anche il giorno seguente. Insomma, i Martinit, per idea del patriota Enrico Cernuschi, furono utilizzati come staffette per diffondere gli ordini del governo provvisorio e dei comitati. Grazie alla loro conformazione fisica riuscivano a sgattaiolare in mezzo alla folla e alle barricate, furono utilissimi, facevano un po' anche da spie, perché potevano intrufolarsi nei posti dove insomma con la scusa di chiedere l'elemosina ascoltavano quello che dicevano i militari, quindi venivano a portare delle notizie. Insomma, furono utilizzati moltissimo durante le 5 giornate di Milano, e alla fine il direttore dell'orfanotrofio fu costretto a rivolgersi al governo provvisorio perché concedesse il rientro degli orfani nel collegio dei Martinit, perché diceva: vabbè, ho capito che vi sono utili, d'accordo che mi state versando anche voi lo stipendiuccio, però le botteghe artigiane me li reclamano. Se va avanti così, questi ragazzini perderanno il posto. E ci fu un bel da fare, perché ai rivoluzionari, questi ragazzini intelligenti, colti a modo loro, erano talmente utili che insomma riuscivano difficilmente a farne a meno. Dopo successe il fenomeno opposto: i Martinit rientrati in collegio, una volta conosciuti gli ideali liberali, partecipando alle lotte a cui avevano partecipato, insomma, si rifiutavano di obbedire agli ordini come prima e di rispettare fino in fondo le gerarchie, dicendo che chi comandava doveva essere il più intelligente, il più facoltoso, e non semplicemente il più facoltoso dal punto di vista delle capacità mentali, e non semplicemente colui che aveva la divisa più sgargiante. Questa fu la protesta dei Martinit rientrati in sede. Questa è l'esperienza milanese. Roma è un altro tipo di città, e anche nell'utilizzo dei bambini agì in maniera diversa. Vi ho raccontato del fatto che il buon Mameli girava di piazza in piazza per Roma tenendo discorsi e conquistando il popolo romano alle lotte garibaldine. Ebbene, conquistò anche i bambini, forse grazie al fatto che lui era molto giovane, quindi ebbe un forte ascendente su di loro, e Roma era piena di quelli che oggi in Brasile si chiamano i niños de rua, cioè di bambini che crescevano per strada, non sapeva neanche di chi fossero, molti abbandonati, non esisteva una struttura come quella dei Martinit a Roma, crescevano lì per la strada con l'elemosina di tutti, qualcuno aveva un genitore, molti no, e così. Però tra queste bande di ragazzini che giravano per il centro e per Trastevere se ne distinguevano alcuni, perché erano un po' i capi, no? dei bambini. Uno di questi era Righetto. che tornò utile. Righetto sposò subito, gli piacevano molto questi uomini con le camicie rosse, chiese che tutti i loro bambini potessero avere qualcosa di rosso anche loro, una maglietta rossa, una camicia rossa, la ottennero, e questo li rese fieri e assolutamente partecipativi. Quando furono utili questi bambini, che all'inizio fecero semplicemente da porta ordini da un settore all'altro, quando i francesi sfondarno a San Pancrazio, ricacciarono indietro fin giù a Trastevere i garibaldini, si asserragliarono sulla sommità del Gianicolo e da lì bombardavano le truppe garibaldine che erano sotto la collina. Chi conosce Roma sa benissimo cosa voglio dire: dal Gianicolo si domina soprattutto Trastevere, e comincia, e laddove individuavano un assembramento garibaldino buttavano bombe e granate. Le bombe dell'epoca erano tutte a miccia, dovete sapere questo, e questa è una cosa molto importante, perché che cosa venne in mente a non si sa a quale capo garibaldino di chiedere ai bambini di specializzarsi in una cosa. I bambini dovevano essere muniti di stracci, questi stracci dovevano essere sempre bagnati. Ogni volta che cadeva una bomba, il bambino più vicino col suo straccio bagnato si doveva gettare su questa bomba e col suo straccio bagnato spegnere la miccia. In questa maniera la bomba non scoppiava, non solo, ma veniva recuperata, consegnata ai garibaldini che la usavano a loro volta. Per ogni bomba consegnata un bambino guadagnava 25 baiocchi, con i quali, che vi posso dire, poteva comprarsi un panino con dentro della mortadella, non più di questo. Ma la cosa che apparve subito evidente è che questi bambini partecipavano con passione a queste lotte. Chiaramente voi capite la pericolosità dell'atto di buttarsi su una bomba con uno straccio bagnato in mano. Spessissimo i bambini non facevano in tempo e saltavano per aria. Righetto divenne subito famoso come il più bravo di questi bambini. E perché? Grazie alla sua cagnetta, che si chiamava Sgrullarella. Lui l'aveva, una botta di genio del ragazzino romano, capitemi, aveva addestrato Sgrullarella con una serie di stracci a tuffarsi nelle fontane di Trastevere con gli stracci e a riportarglieli continuamente bagnati. In questa maniera Righetto era sempre fornitissimo di stracci bagnati ed era tra tutti i bambini quello che riusciva a spegnere più granate, più bombe e a riportarle, e quindi era diventato immediatamente un leader. Questo non gli valse però la vita eterna, e in poco tempo, cioè uno degli ultimi giorni di luglio, quando ormai la tenuta di Roma era agli sgoccioli contro i francesi, saltò in aria lui e la sua cagnetta. Si perse del tutto la sua memoria per molto tempo, finché per oggi devo dirvi che accanto alle giostrine del Gianicolo, avete presente le giostrine, quei bambini, c'è un piccolo monumento con su un bambino, no? Che io mi ricordo, mio padre mi diceva: quello è il Balilla. No, quello è Righetto, c'è scritto sopra. E c'è una salitella che nella zona dei Fortini, sotto Villa Sciarra, porta a Trastevere, si chiama Salita di Righetto, per ricordarci di questo bambino che simboleggia in sé tutti i bambini, tanti e sono state migliaia, che hanno perso la vita anche loro per darci l'Italia. Un applauso anche a loro, direi, no? Per le strade, per le rive di Trieste, suona e chiama di San Giusto la campana. L'ora suona, non lontana, che più schiava non sarà. Le ragazze di Trieste cantano tutte, con ardore, o Italia del mio cuore, tu ci vieni. Italia del mio cuore, tu ci vieni al palestra. Su San Giusto spento l'arte prima festa, il vestito tricolore. Le ragazze di Trieste cantan pure, o d'ardore, o Italia, o Italia del mio cuore, tu ci vieni a liberar. I diari Garibaldini. Allora, ma come faceva questo benedetto uomo di Garibaldi a radunare intorno a sé, dovunque andasse, migliaia e migliaia di persone? Ebbene, si era conquistato un po' per leggenda, un po' per sue qualità naturali, una credibilità e soprattutto un fascino, anche in chi non lo conosceva. Vi leggerò dei documenti in questa spigolatura, solo dei documenti. Esiste un libro che si chiama Il Re, il Conte e la Rosina, che è il diario di un diplomatico francese presso la corte sabauda. Henri Daville si chiamava questo qua, e ci scrive questo: giunse a Torino Alexandre Dumas, tutta la città seppe immediatamente della sua presenza. Mi recai da lui a chiedergli se avrebbe gradito passare la serata nel salotto della marchesa Alfieri. L'autore dei Tre Moschettieri mi ricevette cordialmente, ma declinò l'invito. Ringraziate vivamente la marchesa Alfieri, ma mi è impossibile accettare. E sapete perché? Ebbene, da lei incontrerei suo zio, il conte Camillo Benso di Cavour, e non voglio vederlo. Questo vi meraviglia? Beh, senza dubbio, dissi. Ah, io, caro mio, lascio Torino entro 24 ore, mi imbarco a Genova. Tra 3 giorni sarò da Garibaldi. Non lo conosco, ma gli ho scritto. Mi aspetta quell'uomo, un eroe, un avventuriero sublime, un personaggio da romanzo. Prendendolo a modello scriverò qualcosa. È un pazzo, uno sciocco, tutto quel che volete, ma uno sciocco eroico. Ci intenderemo benissimo. Che volete che ci possa fare io con questo Cavour? Sarà anche un grand'uomo di stato, un uomo di genio, un politico consumato. È più forte di Garibaldi, lo so, ma non porta la camicia rossa lui. Indosserà un abito nero, una cravatta bianca come un notaio. Se lo incontrassi, addio mio bel viaggio, il mio Garibaldi sarebbe sciupato. Sono un artista, solo Garibaldi mi attrae. Questa è una cronaca d'epoca su delle dichiarazioni di Alexandre Dumas, che veniva a cercare il fenomeno Garibaldi. Quindi Garibaldi era diventato una sorta di personaggio su cui scrivere romanzi, capito? L'aveva prenotato per poterci scrivere un romanzo sopra. E infatti Dumas seguì la spedizione dei mille con una sua barca che viaggiava parallelamente alle navi garibaldine. Lui viaggiava con grande sfarzo e lusso, con le sue donne a bordo, eccetera. Ma insomma, ad ogni sosta parlava con Garibaldi, prendeva appunti, tentò di scrivere un romanzo che però in forma di romanzo non uscì un breve racconto. Ma raccontiamo brevemente della spedizione dei mille, se no parliamo sempre di Garibaldi, alla fine non tocchiamo il punto saliente. Esiste un libro di Giuseppe Cesare Abba, che fece parte della spedizione dei mille. Il libro si chiama Da Quarto al Volturno. Io leggerò una parte dell'inizio che ci racconta l'entusiasmo con cui si partì, e l'ultima pagina, quando Garibaldi decise che era tempo di ritirarsi. Genova, 5 maggio 1860, mattino. Ieri sera arrivammo a ora tarda, e non ci riusciva di trovar posto negli alberghi, zeppi di gioventù venuta di fuori. Genova, nelle ore supreme, è ammirabile. Nessun chiasso, silenzio, raccoglimento e consenso. Alla porta Pila v'erano 2 donne del popolo che a vederci passare piangevano. Di là a Quarto, di tanto in tanto un po' di folla muta, ai piedi della collina d'Albaro, alzai gli occhi per vedere ancora una volta la villa dove Byron stette gli ultimi giorni prima di partire per la Grecia. Se vivesse ancora, Byron sarebbe a fianco di Garibaldi, l'ispiratore. Questo villaggio è Quarto? Sì. Dov'è la Villa Spinola? Più avanti. Tirai avanti. Ecco la villa. Biancheggiava una casina di là del gran cancello, in un bosco oscuro, nella cui profondità per i viali si muovevano uomini affaccendati. Dinanzi, sullo stradale che ha il mare lì sotto, v'era gran gente e un bisbiglio e un caldo che infocava il sangue. La folla oscillava. Eccolo! È lui! È lui! No! No! No! Non ancora! E invece di Garibaldi usciva dal cancello qualcuno che scendeva al mare o spariva per la via che mena a Genova. Verso le 10 la folla si fece più agitata. Tacquero tutti. Era lui. Attraversò la strada e per un vano del muricciolo rimpetto al cancello della villa, seguito da pochi, discese, franco, giù per gli scogli. E allora cominciarono i commiati e io, che non avevo lì più nessuno, mi sentii negli occhi le lacrime. Avviandomi per discendere, mi abbattei in dapino, mio condiscepolo di 6 anni or sono. Aveva la carabina sulla spalla. Anche lui, qui, con noi. Seconda puntata. In mare, dal piroscafo Il Lombardo, 6 maggio, mattino. La barca sulla quale ieri sera mi toccò montare dondolava stracarica. Verso le 11 da una barca già in alto udimmo una voce limpida e bella chiamare «La Masa!» Altra voce «Generale!» Poi non s'udì più nulla. E intanto le ore passavano. Eravamo cullati dall'onda e mi addormentai. All'alba fui destato e vidi 2 navi maestose lì ferme davanti a noi. Tutte le barche furono spinte verso quelle. Mi volsi addietro. Genova e la riviera apparivano laggiù, incerte, in un velo vaporoso. Ma là, oltre, i miei monti esultavano, anti e puri, dominando la scena. Una brezzolina increspava le acque, sulle navi si faceva un gran vociare. Era una tempesta di chiamate, di apostrofi. Fu una mezz'ora di gran furia a chi facesse più presto a imbarcarsi, e anch'io potei finalmente agguantare una gomena e salire. I 2 legni si chiamavano Piemonte e Lombardo, e con questi nomi di 2 province libere navighiamo a portare la libertà alle province schiave. Noi del Lombardo siamo un bel numero, ce ne sono tanti sul Piemonte, anche di là, arriveremo al migliaio. Si odono tutti i dialetti dell'Alta Italia, però i genovesi e i lombardi devono essere di più. All'aspetto, ai modi e anche ai discorsi la maggior parte sono gente colta. Veggo facce fresche, capelli biondi o neri, gioventù, vigore, teste grigie ve ne sono anche parecchie. Ne vidi anche 5 o 6 del tutto canute. Ho notato sin da stamane qualche mutilato. Certo sono vecchi patrioti, stati a tutti moti da 30 anni in qua. Mi si era infitto in mente che questo capitano del Lombardo, la barca in cui ero, fosse un francese. L'aria, gli atti, il tono suo di comandare lo mostrano uomo che in sé ne ha per 10. A capo scoperto, scamiciato, iracondo, sta sul castello come se schiacciasse un nemico. L'occhio fulmina per tutto, si vede che sa far di tutto da solo. Fosse in mezzo all'oceano, abbandonato sulla nave, lui da solo basterebbe a cavarsela. Il suo profilo taglia come una sciabolata, si aggrotta le ciglia, ognuno cerca di farsi piccino. Visto di fronte non si regge al suo sguardo, eppure a tratti gli si esprime in faccia una grande bontà. Ma che capriccio fu quello di chiamarlo Nino? Bixio! Ecco il nome che gli sta. Almeno rende qualcosa come un guizzo di folgore. Bixio! Si fa notte. Il Piemonte tira innanzi più veloce di noi. A quest'ora in casa mia si accende il lume. Torna mio padre da fuori. La cena fuma sulla mensa. Ma la famiglia tarda a sedersi perché qualcuno manca. Manco io. Dopo di ciò c'è tutto il racconto della traversata, della Sicilia, dell'Aspromonte, fino agli ultimi giorni. Caserta, 9 novembre, sera. Oggi il Palazzo Reale guatava il viale che gli si protende dinanzi lontano lontano, guatava le file dei battaglioni rossi distese sotto i grandi alberi immobili. Doveva venire il re a passare in rassegna tutto l'esercito garibaldino, un 12.000 che stavamo con l'armi al piede, in ordine di parata, si aspettava. Il re sarebbe arrivato verso le 2, lo avrebbe annunziato il cannone. E intanto nelle file si parlava, e passavano delle novelle bizzarre, motti, arguzie, cose da poemi e da commedia. Ma non v'era allegrezza. Ma nel più vivo di quei discorsi si udirono le trombe dalla destra della lunga linea. «Attenti! Il re! Papapà, papapà, il re! Il re!» I battaglioni si composero, si allenarono, i cuori battevano. Chi amava, chi no. Poi venne giù una cavalleria trottando. «Eccolo! Quello che cavalcava la testa non era il re, no! Era lui! Lui! Col cappello ungherese, col mantello americano, e insieme a lui tutte camicie rosse. Quel cappello calcato giù sulle sopracciglia segnava tempesta. Vennero, passarono, lasciando un grande sgomento. Arrivarono in fondo al viale. Diedero di volta, ripassarono ancora una volta come un turbine e sparirono. E poco appresso i battaglioni furono messi in colonna di plotoni. Pareva che si dovesse marciare a qualche sbaraglio. Tutti si era pronti, così si andò verso il palazzo reale, a sfilare davanti a lui, al dittatore piantato là sulla gran porta, come un monumento. E si sentiva che quella era l'ultima ora del suo comando. Si sentiva, veniva la voglia di andarsi a gettare ai suoi piedi, gridando: «Generale, ma perché non ci conducete tutti a morire? La via di Roma è là, seminatela delle nostre ossa! Ma la guerra civile? Ma la Francia? L'anno scorso fummo così amici con la Francia! Perché non si va?» Il generale, pallido come forse non fu visto mai, ci guardava. Si indovinava che il pianto gli si rivolgeva indietro, gli allargava il cuore. Non so neppure uno di quelli che stavano vicino a lui che cosa contavano in quel momento. Lui solo contava, non vidi null'altro. Ora odo dire che il generale parte, che se ne va a Caprera a vivere come in un altro pianeta, e mi pare che comincia a tirare un vento di discordia tremende. Guardo gli amici. Questo vento ci piglierà tutti, ci mulinerà un pezzo come foglie. Andremo a cadere ciascuno sulla porta di casa nostra. Potessimo ancora raccoglierci a formar qualcosa che avesse un senso, un giorno. E questi fogli miei che scrivo, povera carta, rimani pur bianca. Finiremo poi. Di la panza di Re Borboni una gran cascia viva fa, di la panza di Re Borboni una gran cascia viva fa, di la panza di Re Borboni una gran cascia viva fa, di la panza di Re Borboni una gran cascia viva fa. E di l'anche di Re Borboni tu forconi avimo a fa, e di l'anche di Re Borboni tu forconi avimo a fa, e di l'anche di Re Borboni tu forconi avimo a fa, e di l'anche di Re Borboni tu forconi avimo a fa. Curno di chi serviti il governo, chi strisce rossa li robbi di panno, se vuole Dio mi cambi al governo, le robe vi le taglio parma a parmo. Corno di chi servite il governo, chi strisce rossa li robbi di panno, se vuole Dio mi cambi al governo, le robe vi le taglio parmo a parmo, le robe vi le taglio parmo a parmo. Italia dei nuovi notabili. Bello Risorgimento, figure gigantesche come Cavour e Garibaldi, eh? Sì, però non hanno molto a che fare con l'Italia del 2011, voi che dite? Basta spostarsi all'epoca successiva, però, per ritrovarsi subito a casa. Voglio dire che finché si è trattato di Risorgimento, va bene. C'erano veramente, probabilmente, degli uomini pieni di ideali tali per cui erano pronti a dar la vita, ma il giorno dopo che fu fatta l'Italia, subito si sono narrate storie nelle quali ci sentiamo assolutamente nella contemporaneità. Ora, i due giganti, Cavour e Garibaldi, diedero vita a due sorti di filoni di pensiero, molto all'ingrosso. Da Garibaldi nacquero, diciamo, i repubblicani anticlericali, e dall'altra parte da Cavour nacque una corrente, diciamo, liberista. Sto usando dei termini più adatti ai giorni di oggi che ad allora, ma insomma a larghi tratti queste erano le due correnti. Però si parla solo di correnti, la levatura degli uomini era tutt'altra. Si incominciò immediatamente, subito dopo, il giorno dopo viene fatta l'Italia e si formano i primi governi. E vi leggo soltanto alcune cose prese dalle cronache dell'epoca. Francesco Crispi viene estromesso dalla, dal collega Nicota della presidenza del Consiglio, che passa sotto banco a un giornale le prove della sua bigamia. Qualche anno dopo è Francesco Crispi che costringe alle dimissioni Giolitti con una serie di rivelazioni compromettenti sullo scandalo della Banca Romana. Scandalo in cui finirà triturato anche lui, Francesco Crispi, quando salterà fuori che la sua seconda moglie ha uno scoperto milionario sempre con l'istituto della Banca Romana. Che dire del ministro degli esteri Mancini, smanioso di invadere il Nord Africa per cercarvi le chiavi del Mediterraneo? Sentite la frase idiota, che in quanto idiota ebbe un enorme successo, voleva le chiavi del Mediterraneo, espressione vuota, insomma, e che quindi ebbe imperitura fortuna. Venne azzoppato costui, questo Mancini, ministro degli esteri, da un gossip ottocentesco sulle sue avventure amorose, culminate con una cosa divertentissima, nella strepitosa risposta data da questo ministro Mancini alla moglie che l'aveva sorpreso a letto con la cameriera. Su tutti i giornali dell'epoca, era citata questa frase. Pare che lui abbia detto alla moglie: scusami cara, al buio avevo creduto fossi tu. Che fa un po' il paio con a mia insaputa, ecco, vogliamo. La cronaca rosa lascia presso il posto anche a quella nera. Nel 1893 il marchese Notarbartolo viene ucciso su un treno a coltellate per aver denunciato i maneggi di Palizzolo, deputato ma compare dei patrini mafiosi, con il Banco di Sicilia. Insomma, anche lo sposalizio tra politica e mafia si compì immediatamente. Di tutti questi scandali, allora, non mi resta che un concetto, ma noi oggi siamo ritornati ad allora o non ci siamo mai mossi di lì? Altra cosa che ho da dire su questi scandali: vi ho parlato del fatto che Francesco Crispi fu accusato di bigamia. Ebbene, c'era una donna che si chiamava Rose Montmasson, aveva un cognome francese perché era nata nella Savoia, che però allora era italiana, era piemontese. Lei faceva la stiratrice di mestiere, aveva conosciuto Francesco Crispi, perché Francesco Crispi, che era un repubblicano della prima ora, quindi anticlericale, rivoluzionario, era stato messo dentro a Torino e lei stirava nelle carceri. Lei era assolutamente ignorante, non sapeva né leggere né scrivere, ma lui la amò furiosamente, lei se ne invaghì, imparò grazie a lui a leggere e a scrivere e divenne anche lei fervente repubblicana. Ebbene, Francesco Crispi se la trascinò per tutte le battaglie di quegli anni. E lei era molto in gamba, ne racconto soltanto una. Nella preparazione della spedizione dei Mille, Rose Montmasson fu mandata, questa donnina, da sola in Sicilia a preparare lo sbarco dei Mille, e quindi andò a Trapani, radunò intorno a sé tutti i repubblicani che poteva, ne convinse altri, fece un piano per favorire lo sbarco dei Mille, poi da lì prese un traghetto, andò a Malta, dove c'erano rifugiati molti diciamo patrioti che erano stati espulsi dall'Italia, preparò anche loro, si mise d'accordo con loro di che segnali dovevano avere perché potessero da Malta arrivare in Sicilia con l'arrivo dei garibaldini. Fatto questo, prendendo i postali, cioè diciamo le carrette del mare dell'epoca, che però facevano il servizio da traghetto di servizio, riuscì a tornare a Genova appena in tempo per partire con i Mille e si rifece tutta l'impresa dei Mille insieme a loro, cioè un personaggio formidabile. Peccato che Francesco Crispi, appena fatta l'Italia Unita, cambiasse idea. Da repubblicano divenne liberale, divenne quindi da anticlericale, divenne assolutamente divenne pro clericale e si sposò con una nobile. Conosciuta all'epoca, che gli garantiva una serie di amicizie tali che gli garantiva la possibilità di fare carriera politica. Beh, peccato che lui, la Rose Montmasson, l'aveva sposata nell'isola di Malta. Però, potente come era ormai diventato, Francesco Crispi al processo riuscì a dimostrare che quel primo matrimonio non era valido. Sentite quanto già allora essere potenti consentisse di vincere le cause. Lui disse che il prete che aveva celebrato il matrimonio a Malta, essendo un prete che faceva parte dell'armata garibaldina in qualche maniera, era passibile di scomunica. In quanto tale non era considerabile un vero e proprio religioso, e quindi de facto il matrimonio era annullato. Questo in spregio alla legge inglese, Malta era un protettorato inglese che invece aveva registrato il matrimonio come valido a tutti gli effetti. La povera Rosemont Masson, che ormai per gli italiani era diventata donna Rosalia Crispi per tutti, finì abbandonata da quest'uomo che ormai aveva preso altre strade, poverissima, girava per Roma come una barbona, e alla sua morte fu tumulata non come tutti gli altri garibaldini eroi della resistenza nell'ossario garibaldino, in tutti i vari luoghi di Roma, ma finì in una fossa in una fossa comune, senza che nessuno si ricordasse più di lei. Ecco, questa di oggi è un'occasione anche per ricordarci di lei. Ricordatevi questo nome: Rosemont Masson, donna Rosalia Crispi, patriota. Di canzone in canzone, di casello in stazione, abbiamo fatto giornata che era tutta da fare. La luna ci ha presi e ci ha messi a dormire o a cerchiare la bocca per stupirci o fumare. Come se gli angeli fossero lì a dire che sì, è tutto possibile. Il gigante escluso. E qui mi scuserà Gramellini se gli rubo un concetto. Durante le celebrazioni garibaldine di questo della scorsa primavera, Rai 2 non si è vergognata di fare una trasmissione in cui bisognava eleggere i 50 italiani più importanti di sempre. E lì in effetti mi sono chiesto: lui perché nella lista dei papabili non c'era? No, dico, come fa a mancare proprio lui? Intendo il più grande presidente del Consiglio degli ultimi 150 anni. Perché manca da quella lista? Lui, migliore persino di De Gasperi. Rileggo la lista, nella lista dei finalisti c'è Garibaldi, ci mancherebbe altro. Accanto a Garibaldi c'è Fiorello, vabbè, ci mancherebbe altro. E ci sono addirittura due Mazzini, attenzione, Giuseppe Mazzini, patriota, e Mina, la cantante. Vabbè, ma possibile non si è trovato neanche uno strapuntino per questo gigante del pensiero? Dico del pensiero, non di statura, ma insomma del pensiero? Eppure nessuno può vantare una storia di successo così fulminante, così romantica. Questa cavalcata inarrestabile, un imprenditore innovativo, un uomo del fare che in un momento difficile della storia patria decide di lasciare la sua azienda per scendere in campo. Ecco, un po' cascamorto con le donne, vabbè, ammettiamolo. Abbastanza spregiudicato nelle frequentazioni, vabbè, però vitale, viva Dio. Non so se avete capito di chi sto parlando, il cognome comincia con la B, come Bologna, B. Perché lui non c'è? Lavoratore instancabile, capace di conservare il potere nonostante l'ostilità della nomenclatura, malgrado i rapporti non facili con il capo dello Stato. È lui che si chiama con la B, anzi vi do un altro indizio, si chiama B, comincia con B il cognome. Perché questo B non c'è in quella lista dei papabili? Qual è la causa di questa discriminazione inconcepibile? Forse il fatto che non rappresenta tutti perché lui proviene dal nord, il nord produttivo operoso, di cui si può considerare un campione? Oppure magari, ecco, questo può essere, perché la RAI sono tutti di sinistra, comunisti, e lui appartiene al centrodestra. Può darsi che sia questo. Però, insomma, scusate lo sfogo, ma è davvero una vergogna che abbiano lasciato uno come lui, no? Uno come... dai, ditelo voi, su. Su. Chi ha detto Berlusconi? No. Benso. Camillo Benso. Conte di Cavour. Il racconto Spigolature garibaldine di e con Riccardo Barbera. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Davide Enia, autore e attore dello spettacolo Autoritratto, in scena a Roma, Teatro India, dal 20 maggio al 1 giugno 2025, ben trovato. Ciao a tutte e tutti. Cos'è questo lavoro? Autoritratto è uno spettacolo in cui per la prima volta affronto il tema del rapporto che un intero ambito culturale, che è il mio, diciamo, di Palermo, abbiamo avuto con Cosa Nostra. Ed è un rapporto di nevrosi in cui abbiamo rimosso, sottostimato, sminuito o mitizzato la mafia, tutto pur di non affrontarlo per quello che era, perché avrebbe rappresentato uno specchio dentro il quale avremmo rivisto le dinamiche di familismo amorale che appartengono a ognuno di noi. Come nasce questo spettacolo? Nasce grazie al filtro del tempo, cioè sono passati così tanti anni che io sono riuscito a calibrare l'entità delle ferite, dei traumi che come essere umano e come parte di una generazione avevo dentro di me. Io vedo il primo morto ammazzato negli anni 80, faccio la maturità nel 92, esattamente tra la bomba del 23 maggio della strage di Capaci, in cui perde la vita Gianni Falcone, e la bomba del 19 luglio, che è la strage di Via D'Amelio, in cui perdono la vita Paolo Borsellino e gli agenti della scorta. Quindi il vivere in una città che è stata una città di guerra ha segnato tutti quanti noi e ha segnato la condizione del nostro sguardo nei confronti delle cose. Basti considerare che le uniche città del blocco occidentale che hanno avuto una guerra vera e propria dopo il 45 sono state Belfast, Sarajevo e Palermo. E Palermo ha più morti però di Belfast, perché c'erano 3 morti al giorno durante gli anni 80. Significa per me riportare in scena quel periodo, riascoltare le voci dei protagonisti di quei giorni, dei miei amici, dei miei familiari, delle mie amiche, cercando veramente di ricalibrare le stesse potenzialità che il passato ci offriva per riuscire a riscrivere questo presente che sembra sempre di più senza più nessuna idea di futuro. Che periodo ti ha interessato? Racconto la mia fanciullezza fino alla mia adolescenza, dall'82 al 92, con un salto fino alla fine degli anni 90 per raccontare il terribile sequestro e omicidio del piccolo Di Matteo, figlio di un collaboratore di giustizia, in cui si vede quanto spietata sia la logica che presiede le scelte di Cosa Nostra. Il problema è che gli spiragli sul contemporaneo sono continui perché raccontiamo storie che ancora non hanno una verità cronologica degli accadimenti, abbiamo dei buchi e si prende atto dell'abitare in un disgraziatissimo paese che non riesce a desecretare nulla e che si accontenta di vivacchiare con le mezze verità. Che bilancio ne fai di quella stagione rispetto all'oggi e nel tuo percorso di vita? Palermo è stata una città molto stimolante, può sembrare quasi un paradosso, però ti sbatte subito in faccia la presenza della morte, la certezza che se continui a coltivare un terreno con ferocia, crudeltà, violenza, omertà, prima o poi inevitabilmente accade che il male appare e si manifesta con tutta la sua forza. E il bisogno di slatentizzare il trauma transitando dalla nominazione dei fatti permette in qualche modo di accettare le parole anche le più terribili per raccontare quello che accade oggi. Per esempio, non ha senso dire che c'è un bombardamento in atto, c'è un genocidio in atto in Palestina. Scegliere le parole significa fare i conti col fatto che la quantità di menzogne che vengono raccontate sono funzionali al mantenimento di un privilegio e di un potere. Se nei quartieri della marginalità non si portano condizioni di dignità, decenza, di lavoro, di offerta di alternative anche culturali, non si riuscirà mai a debellare la mafia, che non è un'organizzazione. La mafia è un modo di pensare. La mafia è un linguaggio, è un modo di agire, è un'iscrizione dentro i nervi, dentro la muscolatura del corpo, è ciò che determina la scelta degli orizzonti. E l'esperienza ti fa capire che se poi i governi, le regioni, i comuni tagliano i finanziamenti all'istruzione, ma dove dobbiamo andare? Aveva ragione Bufalino, è vero che sprofondava nella retorica, ma la retorica ci aiuta a darci una giusta prospettiva. Quando Bufalino diceva che per sconfiggere la mafia c'è bisogno di un esercito, sì, ma di un esercito di maestri elementari. Di questo ci sarebbe bisogno oggi, di una riconversione, altro che corsa agli armamenti. Bisognerebbe potenziare la scuola, l'insegnamento, altrimenti si continuerà a fare finta di nulla e a mantenere la stessa situazione di potere e privilegio, che è quello che continua ad accadere da sempre. Tutti questi ragionamenti e questi materiali, come hai pensato di strutturarli nello spettacolo? I ragionamenti stanno a monte per scegliere una strada da percorrere, e la strada che viene scelta è il racconto di incontri e scontri con il fenomeno di Cosa Nostra, in cui le persone che abitavano Palermo in quegli anni, che continuano ad abitarla, sono segnate da una costellazione del lutto molto profonda e al tempo stesso luminosa nella profondità del baratro. Padre Pino Puglisi è stato il nostro professore di religione, e uso la persona plurale, dico nostro, perché lo è stato mio e di migliaia di ragazzi che andavano al Vittorio Emanuele II, che è il liceo classico di Palermo. Chiunque transitava di fronte casa dei magistrati, qualcuno ci abitava pure di fronte. E il primo morto ammazzato, se non lo vedevi tu, lo vedeva tua sorella, tuo fratello, tuo padre, tua madre. Ma dal cerchio stretto della famiglia non si usciva. Quindi è questo il percorso che si sceglie, di raccontare quello che accade dagli anni 80 fino al 92, con, ripeto, l'appendice di ciò che è accaduto a Di Matteo, e mi sono avvalso della collaborazione di funzionari ora in pensione della Direzione Investigativa Antimafia, che mi hanno fatto una vera e propria lezione di semiotica rispetto ai segni dell'intervento di Cosa Nostra sulla città di Palermo, aiutandomi a chiarificarmi meglio l'ambiente dentro il quale io stesso ero cresciuto. Lo spettacolo Autoritratto, in scena a Roma al Teatro India dal 20 maggio all'1 giugno 2025. Un saluto e un ringraziamento all'autore e attore Davide Nia. Ci vediamo a teatro. Grazie a tutti e a tutti. Ci vediamo in teatro, per chi vuole venire. L'agenda della settimana per quanto riguarda il teatro e gli eventi culturali con Simone Nebbia di Teatro e Critica. E ciao a tutte e tutti, buon pomeriggio. Andiamo un po' a vedere qual è il teatro che si farà in questa settimana a Roma e dintorni, ma principalmente a Roma per ciò che ci riguarda in questo preciso lasso di tempo. E dunque andiamo a vedere un po' una delle rassegne che aprono il contesto cittadino. E già cominciata la scorsa settimana questa rassegna Futuro Roma, questo festival in realtà internazionale di danza e cultura contemporanea nell'ambito delle sale, insomma, del Teatro Brancaccio. Siamo al Teatro Brancaccio, Brancaccino, Open Air, lo Chapiteau, il parco del Teatro Brancaccio, quindi insomma la zona è un po' sempre quella, e questa è una settimana decisamente ricca di eventi. Andiamo a vedere un po', che si comincia questa sera con il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, ecco, quindi siamo un po' in un altro ambiente. In questo caso con Dance Well, oggi pomeriggio alle ore 16, quindi praticamente tra pochissimo. Ma poi andiamo anche nei prossimi giorni ad aggiungere alcune cose molto interessanti, e poi invito a vederle un po' tutte sul sito del Teatro Brancaccio, ma segnalo giusto un paio di cose. Dance Theater Zawirowania, questa compagnia dalla Polonia, con Tell Us About the Future, sarà venerdì 23 maggio alle ore 19 al Brancaccino Open Air. Segnalo anche che domenica 25 maggio al Teatro Brancaccio arriva la Spellbound Contemporary Ballet, di cui tanto parliamo spesso, con la coreografia di Mauro Astolfi, Yes, Of Course It Hurts, Questo è il titolo di questa coreografia, che ospita altre due coreografie, una dal Portogallo con Chroma di Vortis Dance Company, mentre invece dalla Germania, dalla Germania arriva Ordinary People di Frantix Dance Company, e segue la coreografia del gruppo Zakuro Company con Hilo, firmata da Jennifer Rosati e Lorenzo Di Rocco. Quindi domenica, insomma, queste quattro coreografie in fila, una serata abbastanza speciale alle 19.30 al Teatro Brancaccio per Futuro Festival. Comunque, per tutte le informazioni, il sito del Teatro Brancaccio è ideale. Poi andremo anche al Teatro Le Maschere, perché la rassegna Magnifiche Presenze di sette spettacoli, insomma, che parla della narrazione del nostro vivere da un'ottica femminile, ci porta questa settimana al lavoro di Sara Falanga, ideato e interpretato da lei, Medee da Euripide e in poi. Sarà in scena 21, 22, 23 maggio. Questo attraversamento delle varie versioni di Medea, a partire da Euripide fino ai giorni più recenti, e andremo quindi a vedere questo personaggio, come nel tempo si è sviluppato, come si è trasformato. Ma andiamo a vedere anche altro. Mentre al Teatro India continua Come nei giorni migliori di Diego Pleuteri, la regia di Leonardo Lidi, fino al 25 maggio, già ne parlavamo la scorsa settimana, io allargo un po' il campo e andrei al festival che ricordo anche questa settimana, Roma Borgata Festival. Si tratta di questo appuntamento diffuso in varie parti di Roma. Si è cominciato a Villa De Santis con una giornata, insomma, di apertura, e si continua. Invito a vedere, insomma, luoghi e eventi sul sito romaborgatafestival.it. Ci danno eventi, insomma, non solo legati al teatro, ma anche a, insomma, eventi culturali in generale. Quindi, ecco, invito ad andare sul sito per vedere un po' tutto, anche rispetto all'opera. Per esempio, avremo questa Operai all'opera, questo Rigoletto appunto a Villa De Santis, ma insomma ne parleremo via via nel tempo. Mi fa solo piacere ricordarlo e poterci dare appuntamento con Roma Borgata Festival ai nostri prossimi collegamenti. Poi continuo a segnalare che fino al 15 giugno Pop-up Teatro Dal Libro alla Scena sarà alla Fortezza Est, quindi sul sito della Fortezza Est per il programma completo. Altro evento diffuso e che si sviluppa all'esterno, sempre legato all'opera, è questo Opera Boat, da ieri in realtà fino al 23 di maggio al Parco Centrale del Lago dell'Eur, con tre eventi al giorno, alle 17, alle 18, alle 19. Questo evento gratuito con obbligo di prenotazione, che appunto porta l'opera, questo progetto musicale di E45 che unisce l'opera lirica, la musica dal vivo, su una barca in movimento in uno dei bacini più suggestivi della città, appunto il laghetto, che non è più tanto laghetto, dell'Eur. Quindi è una cosa molto molto particolare da andare a vedere e partecipare. Io segnalo, cioè, sono varie poi opere, da Puccini a Turandoni Puccini, da Benjamin Britten, da Butterfly Boat, dedicata sempre a Puccini, una trascrizione della Butterfly, Didone, Euridice, insomma tanti nomi che tornano in questi appuntamenti. Questa settimana, appunto, invito qui ad andare a vedere www.e45.it per andare a vedere il programma un pochino più dettagliato. Poi ancora procediamo, perché ne abbiamo di cose da dire. Al Teatro dei Servi, dal 20, che è oggi, fino al 1 giugno, andiamo a vedere questa Banda Disarmata, Un'amicizia in Armonia, questa commedia, la storia dei tre amici, scritta da Adriano Bennicelli, la regia di Matteo Vacca, un ingenuo quarantenne che si chiama Damiano, curriculum di fatto di colloqui di lavoro, Iaio, responsabile di strumenti musicali del Quirinale, Tito, professore di musica, e insomma queste tre vite si intrecciano con i loro sogni, le loro delusioni, e andiamo a vedere un po' cosa ne viene fuori al Teatro dei Servi fino al 1 giugno. Andiamo appunto alla Fortezza Est, ne parlavamo poco fa, 22, 23, 24 di maggio, per questo spettacolo firmato da Antonio Careddu, Lorenzo Deliberato, Paolo Zaccaria. Ispirato a Noi, criminali di guerra di Giuseppe Zaccaria, in scena lo stesso Paolo Zaccaria, con La guerra di Baba Roga, un racconto che ripercorre orrori e crimini compiuti durante la guerra dei Balcani. Quindi se non avessimo avuto bisogno di maggiore spinta per andarla a vedere, questa dichiarazione ci sembra abbastanza forte. È un monologo appunto ispirato a questo Noi, criminali di guerra, storie vere dalla ex Jugoslavia. Giuseppe Zaccaria è uno storico inviato della Stampa che è scomparso nel 2020 e il primo giornalista europeo a descrivere gli orrori e i crimini compiuti durante la guerra dei Balcani. Quindi dal suo libro, questo spettacolo, La guerra di Baba Roga, alla Fortezza Est, al Teatro Spazio 18B Giorgio Di Maio presenta La mezza stagione, questo spettacolo in cui l'Italia ha dichiarato guerra alla Svizzera per liberare i cittadini del Canton Ticino oppressi e discriminati dal governo svizzero. Chissà se questa cosa sarà mai realistica. Per il momento è uno spettacolo teatrale dal 22 al 25 maggio, quindi divertente direi, al Teatro Spazio 18B. Arriva al Teatro Torlonia la Stand-up Poetry Slam e Teatro. Lorenzo Maragoni presenta il 22 maggio appunto la Stand-up Poetry dalle ore 20 in poi, il 23 lo spettacolo di Slam Poetry, Stand-up Comedy e analisi dei dati personali con Lorenzo Maragoni, e poi il 24 maggio Red Flag, uno spettacolo corale che vede insomma protagonisti attori e attrici del corso di perfezionamento del teatro di Roma, proprio confrontandosi con i linguaggi della poesia e della stand-up comedy. Quindi una 3 giorni molto particolari al Teatro Torlonia. Sul sito del Teatro di Roma troviamo informazioni più precise, ma noi ci spostiamo al Teatro Basilica perché andiamo a vedere questo lavoro 24 e 25 di maggio. Il testo è di Ketty Di Porto, Il valore affettivo del pesce, lei stessa in scena insieme a Enzo Saponara, la regia è di Daniele Aureli, che insomma abbiamo già raccontato in molti appuntamenti. Cosa succede quando il sogno si fa racconto e il bisogno di cura prende voce? Il valore effettivo del pesce è un viaggio emotivo e ironico tra dialoghi vivi, ricordi disordinati e sogni che parlano più delle parole. E questo è quello che andremo a vedere: una donna, un amico, un padre, una psichiatra, 4 presenze che attraversano un'esperienza intima e insieme universale. 24-25 maggio con Che ti riporto al valore affettivo del pesce al Teatro Basilica. Ancora ne abbiamo di cose da dire all'Altrove Teatro Studio, ecco, ce ne andiamo altrove. 24 e 25 di maggio, Il segreto della stella, in scena Federica Flavoni, la regia, la creazione intera, insomma, di Riccardo Mazzoni, uno spettacolo già storico in realtà di Riccardo Mazzoni, insomma, scritto e realizzato un bel po' di tempo fa, e siamo in un ambito che ha a che vedere con il surrealismo, con André Breton, che ha firmato il suo manifesto nel 1924 a Parigi, e l'attrice Federica Flavoni si colloca all'interno di questo spazio che può essere ogni luogo, infatti non a caso il teatro si chiama Altrove, forse anche un po' per quello. Corpo e parole si fondono indissolubilmente e danno vita a un'interpretazione di grande impatto emotivo. 24-25 di maggio per Il segreto della stella all'Altrove Teatro Studio. Segnalo Spazio Rossellini questa sera 20 maggio 20:30, la prima regionale, in realtà nell'ambito di Orbita, la stagione di Spellbound. Questo Fortuna, che è una coreografia di Pier Giorgio Milano, che si è affermato tra l'Italia, il Belgio, la Francia, e ora insomma con questa creazione va a pescare, proprio il caso di dirlo, all'interno della cultura universale a cui appartiene grande capolavoro Moby Dick, e per andare un po' a scandagliare le radici della letteratura di mare, ma anche le radici del mare stesso e il lungo viaggio che si attraversa per affrontare il mare della conoscenza. Quindi con le musiche di Steve Eaton, originali dal vivo, questa danza acrobatica di Pier Giorgio Milano, Spazio Rossellini, questa sera 20 di maggio. Poi ancora salta un giro in Ventaria perché riprenderà settimana successiva. un invito anche il 22 maggio, ma forse dovevamo ricordarlo prima, dentro Futuro Festival, forse ho dimenticato di parlare del viaggio poetico in tre spettacoli del trittico di Mandala Dance Company, appunto all'interno del Festival Futuro Roma, ma anche qui si va in scena il 22 maggio ed invito ad andare sul sito del Festival. Teatro Vittoria per quattro voci e un unico mistero, l'epopea familiare di Teresa degli Oracoli. Questo romanzo di Arianna Cecconi, ed è un romanzo omonimo che appunto racconta questa epopea familiare, l'ho fatto per Feltrinelli nel 2020. Nino Sileci ne cura la regia e trasforma il romanzo in un racconto teatrale di grande impatto emotivo. Teresa è una figura enigmatica, quasi mitica, costretta a letto e avvolta in un silenzio profondo. Intorno a lei si riuniscono le quattro donne della sua famiglia, divise da anni di distanza, incomprensioni e tanti dolori taciuti. La capostipite da lì in poi, insomma, si avvia verso la conclusione della sua vita e quindi probabilmente tante cose torneranno a galla, e nell'evocazione del nostalgica del tempo passato cercheranno di capire un po' il proprio tempo presente. Questo dal 20 al 25 maggio al Teatro Vittoria. Io dunque torno su due appuntamenti però molto importanti, quindi orecchie aperte, perché al Teatro Vascello, sempre Leonardo Lidi, che è già in scena con una regia al Teatro India, con un'altra regia che è La gatta sul tetto che scotta di Tennessee Williams, se ne va sul palco appunto del Teatro Vascello dal 20 al 25 di maggio. In scena attori e attrici di grande notorietà come Valentina Picello, Fausto Cabra, Orietta Notari, Nicola Pannelli e molti altri. Il testo appunto è un classico del Novecento, quello di Tennessee Williams, è scritto nel 1955, che con questo testo ha vinto il suo secondo premio Pulitzer, e racconta la storia della famiglia Pollitt, una ricca famiglia del sud degli Stati Uniti che vive una crisi di fronte all'imminente morte del padre, e la famiglia si riunisce nell'immensa proprietà terriera di Big Daddy per festeggiare il suo compleanno. L'uomo non sa che questa sarà la sua ultima festa, essendo lui ammalato, senza saperlo, di cancro al colon. Tutto ciò che accadrà attorno a lui sarà, insomma, quindi decisivo e particolare. 20-25 maggio, La gatta sul tetto che scotta, Tennessee Williams, Leonardo Lidi, Teatro Vascello. L'ultimo appuntamento di cui parlerei questa settimana è proprio ancora al Teatro India, là dove torna a Roma Davide Enia, insieme alle musiche di Giulio Barocchieri, in scena con questo autoritratto. Sarà in scena da questa sera fino al primo di giugno, ha già debuttato al Piccolo Teatro di Milano, ha fatto un po' di piccoli giri e adesso arriva con questa ultima creazione sul palco del Teatro India, uno spettacolo intimo, collettivo, che riavvolge il filo sulle vicende di Cosa Nostra, avvenute in Sicilia, in particolar modo a Palermo, attraverso un'accurata analisi personale e collettiva lunga più di 30 anni. Si parte dall'esplosione famosa, quella di Capaci, il 23 maggio del 92, dove Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, sua moglie e i tre agenti della scorta sono saltati in aria e scomparsi nel nulla, fino ad arrivare al rapimento e l'omicidio di Giuseppe Di Matteo, il bambino figlio di un collaboratore di giustizia tenuto per 778 giorni in prigionia in condizioni disumane e infine ucciso per strangolamento e poi sciolto nell'acido, come insomma recitano le orribili cronache di Cosa Nostra. 20 maggio, 1 giugno, da non perdere questo appuntamento, Davide Enia al Teatro India con Autoritratto. E con questo direi che ci siamo, quindi buon teatro a tutte e tutte. Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.